basta, perché magari la dottoressa la, la, la dà la, così la, senza la, magari... Ah, nulla da Maria. Allora falla qua nella campagna, dai. Vai qua. Vieni, tirati giù. Oh, lì o qua. Vieni qua.